Ricordate, ogni attacco che preparate contiene 8 unità di energia. Tuttavia, lo scudo del nemico ne assorbe 3. Dovete quindi sottrarle dal totale. L'energia restante rappresenta il danno effettivo di ogni attacco. Usando questo dato, potete calcolare quanti attacchi vi servono per infliggere le 50 unità di danno richieste.